di farmi sentire altro. Meno bene degli altri giorni, Claudio, cosa hai fatto? penso che sia io, ma non lo so. No, sei tu perché non riesco a capirti. Sei saturo, c'è qualcosa che non va lì. Capito? Sei saturo, c'è qualcosa che non va. Tutto, capito? La balletta di questa radio è quello lì. riguarda la tua perla Arizona. Grazie. niente Ciccio, vediamo un po' là. D'accordo, ci sentiamo più tardi, ciao a tutti qua a RT, riprendi Mario, scusa il microfono. Radio.